Rieccoci dopo questa pausa musicale, ringraziamo per la scelta delle canzoni i nostri cari amici che io saluto calorosamente come al solito e li ringrazio per questo spazio che mi concedono sulla loro fantastica web radio che veramente sta facendo moltissimo per portare avanti, per pubblicizzare delle iniziative e quant'altro. Io vi invito come al solito a seguire tutti i loro programmi che sono interessanti, divertenti, loro sono simpaticissimi. Quindi se vi iscrivete al gruppo Web Radio Luzzi su Facebook o chiedete semplicemente il contatto Facebook di Web Radio Luzzi sarete informati su quelle che sono le iniziative, anche perché ci sono sempre, ultimamente c'è stato l'ingresso di personalità nuove in questa radio che hanno portato dei validissimi contributi ai quali io porgo i miei più sinceri complimenti, perché sono delle persone veramente, veramente capaci e veramente che hanno un certo stile, ecco, definirei utilizzare questa parola se me lo consentite. Molto, un po' di tempo fa, però, qui volevo leggervi un'altra cosa molto, molto interessante. Sono state raccolte 5.000 firme negli Stati Uniti d'America per finanziare una ricerca che vada ad appurare effettivamente l'esistenza di ET. Vi ricordate, o ET? Sì, ve lo ricordate sicuramente. Se non avete visto il film, sicuramente ricorderete la pubblicità di una nota ditta telefonica. Ai tempi in cui ancora il telefonino non esisteva, il cellulare non esisteva. Comunque sono state raccolte queste firme, è stata fatta una petizione negli Stati Uniti d'America per poter finanziare una ricerca in cui la gente si dichiarava interessata a sapere se effettivamente gli extraterrestri c'erano, se erano nello spazio, se c'era vita in qualsiasi altra parte della galassia, o per sapere se effettivamente questi alieni vivano tra di noi. A proposito, prima faccio una piccola parentesi perché ho parlato con delle persone tramite il mio account Facebook, con delle persone che mi hanno detto che sono convinte di aver sviluppato dei poteri paranormali. Io ho invitato queste persone a volerne parlare, ma si sono rifiutate, nel senso che loro sono convinte di poter attraverso il loro pensiero, sviluppare delle capacità telepatiche. Io le ho invitate a parlare, io non so se sia stata una presa in giro, onestamente non lo so, però sembravano abbastanza convinte. E alcune mi hanno detto soprattutto di avere un intuito molto molto accentuato. Questa non è, io penso che non è una cosa sciocca, l'intuito è una cosa che è sempre esistita, è una cosa che fa parte dei nostri sensi. Quindi niente, se ne volete parlare delle vostre intuizioni, io vi do ampio spazio, quindi mettetevi in contatto con me perché mi piacerebbe magari parlare, approfondire, levarvi delle curiosità su quello che è l'intuito, di cui ne ho parlato già in precedenza. Comunque, ritorniamo a questa nostra chiacchierata, sono state raccolte queste 5.000 firme e questa petizione è stata spedita a settembre via email al sito We Are the People della Casa Bianca. Dopo 2 mesi d'attesa è stato il responsabile della comunicazione per scienze e tecnologie di Obama, Phil Lerson, a spegnere gli entusiasmi degli appassionati di ufologia. Stiamo cercando ET, ma ancora non abbiamo le prove che esista. Questo è ciò che è stato detto. E poi, la verità di Stato, il governo statunitense non ha alcuna evidenza dell'esistenza di vita aliena sul nostro pianeta o che una presenza extraterrestre sia mai venuta in contatto con qualche membro della razza umana. Continua sempre. Non ci sono informazioni credibili per suggerire che l'evidenza, sia rimasta nascosta alla nostra conoscenza. Tuttavia, ciò non significa che il tema della vita nello spazio non sia al centro di discussioni e di ricerche. Questa poteva essere una presunta verità che comunque sia andata a far calare un velo di tristezza su tutti coloro che erano interessati a questo argomento e che ad ogni modo non hanno avuto, come dire, modo di approfondire i loro studi, perché se qualcuno presenta una proposta, come è stata presentata negli Stati Uniti, una petizione in questo caso, in cui dice io vorrei avere 5 milioni di euro per poter studiare l'esistenza di vita in un'altra galassia, Diciamo che non è una proposta che dice, ah, ma sì, che bella proposta, va bene, certo, la finanziamo. Sicuramente è una cosa molto difficile da ottenere, da in qualche modo appurare, anche perché sono quelle cose che bisogna dare delle prove tangibili, bisogna avere degli spunti. Non è facile, ecco.